Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La mia vita sembra noiosa, ma non lo è poi così tanto. Sono a casa mia, insieme alle persone che mi amano, nella tranquillità della mia casa immersa nel verde della campagna. E sto bene, nella mia quotidianità di cose da fare così. Sono Cristina, vengo da Vilimpiente in provincia di Mantova, ho 40 anni, sono una ceramista, progettista interior designer. La puntata di oggi è una puntata particolare per un motivo molto semplice, che di solito chi scrive la storia è anche il protagonista della storia, cioè autore e protagonista coincidono, perché quello che vi chiediamo è di scriverci una storia che racconti un episodio della vostra vita, un episodio personale che vi è realmente accaduto. E non facciamo insomma trasgressioni a questa regola. L'abbiamo fatto in questo caso perché la storia di Cristina è una storia molto particolare per il punto di vista, non per il racconto. È una storia molto particolare perché è come se lei si mettesse nei panni di sua mamma, che da mi pare tre anni mi dice non è più in grado di parlare, non è più in grado di muoversi, quindi ha bisogno che le persone che le stanno vicine, cioè le figlie, il marito e delle infermiere, le diano una mano perché si trova a letto. Ecco, quello che lei fa è, visto che sta spesso con la sua mamma perché fa la ceramista e vive lì a casa sua, vicino a casa sua, è quello di provare a mettersi nei panni di sua mamma e di raccontare una storia come se fosse lei. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08, il programma lo avete capito, e voi siete qui. Una storia al giorno, una persona diversa al giorno. Cristina, io non l'avevo, devo dire che quando ci arrivano le storie io attacco subito a leggere la storia, però le storie che ci mandate spesso sono accompagnate da una mail, e dopo questa storia qua ho capito che devo leggerla sempre la mail, perché mi dice: salve, questa è la storia di Luciana, mia mamma. Scrive Cristina, È una storia fatta di ricordi della sua vita, di come per capire cosa accade nel presente lei abbia dovuto sapere imparare ad ascoltare e a concentrarsi, collegare continuamente un ricordo a un altro. Ormai mia mamma non parla più da quasi 3 anni. Quello che vi mando è un ipotetico racconto di come passa le sue giornate. Non poi così tanto ipotetico, perché comunque le siamo vicini tutto il giorno e chiacchieriamo a modo nostro, riuscendo a capirci. Quindi ho trascritto un insieme di suoi spezzoni di cose fatte, vissute, dette o sentite. Lei non lo sa che l'ho scritta, magari un giorno la sentirà. Come no, farà lo stesso. E invece direi come sì, Cristina, perché oggi è il 23 di aprile del 2013, è un martedì, sono le 16:08 e stiamo per raccontare questa storia che è la tua, o meglio, che è di tua mamma, però è la tua in qualche modo. Mi piace immaginare che ci sia una sovrapposizione. Oggi però, approfittando della storia di Cristina, anzi più che della storia, per la prima volta approfittando del punto di vista da cui Cristina ha raccontato questa storia, ci piace immaginare nei panni di chi vorreste essere, nei panni di chi vorreste essere per raccontare qualcosa o per vivere qualcosa. 349-238-6666 sono gli sms per scrivermi, per scrivere a tutti in realtà qui della radio, in questo caso per scrivere a me in diretta, oppure c'è un profilo Facebook di questo programma che è Voi Siete Qui Radio 24, dove già ad esempio Gianluigi mi scrive: mi piacerebbe essere nei panni di mio papà per capire cosa pensa di me, se ai suoi occhi mi sono riscattato, per sapere se ha fatto la pace con quel pugno che provai a dargli tanto tempo fa, per sapere se c'è qualcosa di me che lo rende orgoglioso. Vorrei provare ad essere nei panni di mio papà per capire come mai un cuore così tenero è ingabbiato in una corazza così pesante, e vorrei essere mio papà per non perdere altro tempo, vorrei essere mio papà per andare a pescare. Vorrei essere mio papà per far sì che non sia troppo tardi. Preparatevi ragazzi, perché oggi si rischia di piangere. Io lo dico preventivamente, perché capitano delle storie più toccanti di altre. Quella di Cristina in realtà è una storia di, come dire, di cronaca di una giornata, quindi non è poi così commovente, se non nel modo in cui è raccontata, e ripeto, nel punto di vista. E poi ancora Pietro mi scrive: mi piacerebbe calarmi nei panni di mia madre, che da quando avevo 16 anni, ora ne ho 57, mi ha sempre messo i bastoni fra le ruote, nel lavoro e in amore. Insomma, vorrei sapere se lo faceva per proteggermi o se mi riteneva incapace. E poi aggiunge: pace all'anima sua, è mancata nel 2004. Nei panni di chi vorreste essere, chiunque esso sia.

detto che noi eravamo un po' preoccupati quando abbiamo immaginato il tema di questa puntata, perché abbiamo detto, se chiediamo nei panni di chi vorresti essere, arriveranno messaggi magari di qualcuno che vorrebbe essere, che so io, un politico per mandare a quel paese quell'altro, un attore per mandare a quel paese tutti quelli che si può permettere di mandare a quel paese. Invece non sta accadendo, anzi è esattamente il contrario. Vorrei essere nei panni di un mio studente, ad esempio, mi scrive qualcuno, per rivivere la meraviglia di imparare la lingua cinese da capo. Mi sembra sempre incredibile che qualcuno voglia impararlo da me e vorrei sapere che cosa arriva dall'altro lato della cattedra. 349-238-6666, ma anche il profilo Twitter del programma o su Facebook. Nei panni di chi vorreste essere? Per Cristina è molto chiaro, ci ha raccontato una storia nei panni di sua mamma. Pronto Cristina? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Sei in quella casa lì che ci hai descritto magnificamente, un casale in parte un po' diroccato sembra. No, diroccato no. È che ne abbiamo reso la parte che è sempre stata abitabile, l'abbiamo ristrutturata anche in base alle esigenze della mamma. Okay. L'altra è rimasta con il portico aperto, quindi utilizzato per il ripostiglio di attrezzi agricoli che usano mio papà e i miei zii nella loro azienda agricola, e una parte cantina per il vino che facciamo noi qua a casa. Sembra il sogno bucolico che diciamo moltissimi della città si immaginano, no? A occhi aperti. Dove siamo esattamente? A Villintenta, in provincia di Mantova, è sul confine tra Mantova e Verona. Scusami, ripeti il nome. Villintenta, una villa tinta praticamente. Ok, perfetto. Esatto. Comunque sei lì, sei in casa, giusto? Sì, io sono in casa di solito pomeriggio. E sei con tua mamma adesso? No, sei in un'altra però stanza. Però lei si è appena addormentata. Ok, giustamente, perché ascoltandoti io, c'è questo effetto. Non vorrei che questo fosse una grande verità in realtà, no, Cristina. No, ma lei guarda, si rilassa sentendo le voci e le persone parlare, si rilassa, per cui è un complimento, Matteo. Ti ringrazio. Cristina, visto che volevo chiederti questa cosa innanzitutto. Sì. Noi quello che chiediamo è di raccontare un episodio della propria vita. Sì. E ci ha affascinato il fatto che tu abbia raccontato di fatto un pezzo di vita di un'altra persona, che è tua madre, ovviamente. Sì. Però è un'altra persona, no? Hai raccontato quasi come se fosse tua un pezzo di vita sua. Perché hai deciso di raccontarci questa storia invece che una qualunque delle tue? Non lo so, sinceramente, perché lei, con la scusa che non parla più, ormai io anche tante volte qua in casa cerchiamo di ricordare che tipo di suono possa avere la sua voce, perché dopo un po', per quanto sei affezionato a una persona, te la dimentichi. Certo. Lei, ascoltando le vostre storie, non potendo dire la sua, ho cercato di ricostruire un po' quello che pensa, come vive, cosa vorrebbe raccontare. Chiaro, quindi in qualche modo ti ha aiutato, Cristina? Dunque sì, perché comunque sia tante cose ce le aveva già raccontate. Questo è praticamente, io ho 40 anni, sono tutti spezzoni della vita un po' vissuta di adesso in base ai ricordi che ci raccontava quando eravamo piccoli. Certo. Per cui magari senza dirle sto scrivendo la storia per te, le dicevo, cosa dici mamma, ti ricordi? Allora lei diceva di sì, allora inseriva una cosa o l'altra, ti piace, cosa ne dici, cosa ne pensi? Capito, chiarissimo. È nata così. Tu fai la ceramista? Sì, esatto. Cioè fai, adesso lo so che... Hai presente Ghost, il film Ghost? Sì, usi quella roba lì, usi il Danny Moore, con come il si tornio. Chiama? Come esatto. Si chiama? Tornio anche quello? Cioè tutta una roba che gira si chiama tornio? Si okay. Chiama tornio, perfetto. Sì, tornio per la ceramica. E le fai su richiesta oppure le vendi a dei negozi? Come funziona? No, ho alcuni clienti che richiedono, dipende dal tipo di lavorazione che poi fanno loro, o crudo per la grafitta, che è un tipo di ceramica che facciamo qui a Mantova, oppure biscottato, quindi già pronto per la decorazione del colore. Quindi hai anche un forno? Sì, esatto. Che è la cosa più complicata, mi pare, no? Da avere... Che temperatura deve raggiungere? No, avere, basta avere i soldi, ti prendi tutti i forni che vuoi. Bello, lo immagino. Usarlo. Che temperatura deve raggiungere la ceramica? La ceramica cuoce intorno agli 800 gradi, per avere una terracotta ne bastano 750, poi dipende dal tipo di argilla perché ce ne sono di vari tipi. Mi dici quindi cosa hai fatto stamattina, che pezzo hai fatto oggi Cristina? No, oggi niente, oggi in questi giorni qua mi sono un po' dedicata a quella che è la progettazione. Ok, di che cosa? Tante volte faccio concorsi, per cui sto lì, provo, magari faccio dei modellini piccolini in scala con l'argilla per vedere un po' il risultato, e poi quando sono pronta vado sul tornio, in laboratorio e comincio. Però dimmi l'ultimo pezzo che hai proprio prodotto manualmente. Dunque, l'unica un vaso. Dei vasi, sì, esatto. È l'unica cosa che immaginavo si potesse fare. Quante cose si possono fare con la ceramica? Vasi, tazze, lampade, piatti, automobili, tazzine,

ho letto bene, Stefano? Aspetta, vorrei rinascere donna, ma non ho voluto essere donna essendo uomo. Ok, perfetto. Quindi immagino tu non abbia voluto cambiare la tua sessualità. Matteo da Salerno, vorrei essere nei panni di Tony Stark per avere l'armatura di Iron Man. Quindi qui si parla di cinema, perdonatemi, di fumetti prima ancora. E poi Filippo, secondo me è controverso il tuo messaggio, Filippo da Lucca. Mi piacerebbe essere nei panni di un vincitore di un'Olimpiade. E fino a qua siamo d'accordo. In uno di quegli sport ritenuti minori, sentire l'inno d'Italia, festeggiare e poi tornare ad allenarmi al chiuso di una palestra in periferia, Filippo, io non ci credo fino in fondo a questa cosa qua. Perché secondo me manco loro lo desiderano. Anzi, ti dirò di più. Secondo me, se all'ascolto adesso ci fosse uno di questi che ha vinto un oro ed è ritornato ad allenarsi in una palestra in periferia, un po' gli gira un pochettino gli gira, mi piacerebbe essere come un vecchio conosciuto anni fa in Messico, dentro una locanda, da solo nella penombra del locale. Avevo una storia e un consiglio per tutti, era un maestro di vita. Insomma, essere nei panni di qualcuno è arrivato, poi ovviamente l'ho chiamato ed è arrivato il messaggio, vorrei essere nei panni di, ed è arrivato il solito politico, ma chi se ne frega. Voglio salutarvi con questo messaggio oggi, non si firma, ma finisce con una domanda. Vorrei essere nei panni di mio figlio per capire da dove viene tutta quella rabbia. È colpa mia? Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Filippo Aureggi, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Grazie soprattutto a Cristina, perché la storia di oggi era la sua e della sua mamma, e tutte e due, loro due, sono un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Nicola da Pavolo nel Frignano, provincia di Modena. La storia di domani è la mia e parla di funghi. Questa è la mia storia e io sono qui.